Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona serata, un buon sabato, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. I saluti vi arrivano anche da Nadia Zammiti in redazione e Pietro Lacorte in regia. Allora, questa sera parliamo di Afghanistan. Quanto reggerà il paese sulle sue gambe dopo il 2014 con il ritiro delle truppe internazionali? Quanto gli insorti sapranno contrastare gli sforzi del governo Karzai? E ancora quanto le forze centripete del paese, vedi gli aspetti etnici o clanici, riemergeranno prepotenti? In ultima istanza, che cosa accadrà dopo il 2014, dopo il ritiro ISAF? Ed è anche la domanda che pongo a voi, quindi se volete rispondere, se volete commentare. Nessun luogo, @radio24.it e la mail, gli sms 349-238-6666, il profilo Facebook, Nessun luogo lontano trattino Radio 24, e infine, se siete sintetici, potete dire la vostra anche via Twitter, Nessun luogo 24. E allora, siccome Nessun luogo lontano, io vi porto a Balabaluk, provincia di Farah, in Afghanistan. Due settimane al seguito degli alpini, con gli alpini del nono reggimento nella base avanzata Tobruk, due settimane su e giù per la Ring Road e non solo, pattuglie, scorte ai convogli, visite ai villaggi, uscite notturne, assistenza medica in base e fuori. L'obiettivo è rendere sicura la zona e contrastare la presenza talebana. Buonasera a Gian Michalessini, inviato di guerra del giornale. Buonasera a tutti voi. Allora Gian, per capire l'Afghanistan bisogna esserci stati tante volte e anche dopo decine di volte, parlo per te ma non per me perché era il mio battesimo afghano, eravamo lì insieme questa volta, e anche dopo decine di volte rimangono elementi di imperscrutabilità, no? Questo sud-est che abbiamo visitato, così aspro, così sterminato e così uguale a se stesso, era l'83 quando tu per la prima volta entravi nel paese al seguito dei Mujahideen. Che cosa è cambiato da allora in questo paese? Questa domanda me la fanno in molti. Purtroppo la mia risposta diventa sempre più la stessa: è cambiato poco, niente. I talebani di oggi si muovono come i mujahideen di allora, con la sola differenza che hanno più macchine, più mezzi per muoversi lungo il paese. E noi occidentali, noi dell'ISAF, noi delle truppe NATO, che siamo lì in quel paese, noi giornalisti che seguiamo i militari, i nostri militari si muovono come i russi di allora, dentro i blindati, chiusi dentro per paura degli attacchi dei talebani. Questo pensavo potesse cambiare, purtroppo la strategia della NATO si è dimostrata di breve durata. Abbiamo annunciato un ritiro entro il 2014 che non ci consente di cambiare la situazione sul terreno, e per questo la situazione mi sembra assolutamente uguale a quella del lontano 1983, a parti invariate. Noi come i russi, i talebani come i mujahideen allora. Ecco, quasi 30 anni, una fotografia che è un po' sbiadita, ma rimane sempre la stessa. Il tempo è una delle variabili cruciali. Mancano 2 anni, come dicevi giustamente tu, al ritiro. Allora ripercorriamo gli ultimi anni di questa missione internazionale in Afghanistan. Il 20 dicembre 2001 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva una risoluzione con la quale autorizza il dispiegamento di una forza multinazionale denominata International Security Assistance Force, comunemente conosciuta con l'acronimo ISAF, con il compito di assistere le istituzioni politiche provvisorie in Afghanistan e mantenere un ambiente sociale sicuro attraverso il contributo ad azioni umanitarie e di ricostruzione. Dall'agosto del 2003 il contingente multinazionale è passato alle dipendenze della NATO. È la prima missione militare extraeuropea dell'Alleanza Atlantica, dopo che il vertice di Praga del novembre 2002 ha stabilito che le forze dell'Alleanza possano intervenire anche fuori dall'area dei Paesi membri, nell'ambito di un approccio globale per la difesa contro il terrorismo. In particolare, i principali compiti di ISAF sono sostenere le campagne di informazione e dei media, supportare i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, sostenere le operazioni di assistenza umanitaria, fornire assistenza ed aiuto alla riorganizzazione delle strutture di sicurezza dell'amministrazione ad interim, formare ed addestrare l'esercito e le forze di polizia locali. ISAF comprende 130.386 militari appartenenti a contingenti di 49 paesi. Il contributo maggiore è fornito dagli Stati Uniti con 90.000 unità, dal Regno Unito con 9.500 unità e dalla Germania con 4.800 unità. Alla stabilità del paese contribuiscono inoltre circa 180.000 soldati dell'esercito nazionale afghano. Il comandante della missione dal 18 luglio 2011 è il generale statunitense John Allen. Dal comandante di ISAF dipendono i 5 comandi regionali, in cui è stato suddiviso il territorio della missione: North, West, South, East e Capital. Dal 2005 l'Italia ha preso la responsabilità di uno di questi 5 settori regionali, il Regional Command West, che comprende la zona di Herat e le province di Baghdis, Ghor e Farah. Attualmente il contingente italiano è costituito da 3.952 unità, comprendenti personale delle Forze Armate, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Ad oggi, i componenti del contingente italiano che hanno perso la vita durante la missione ISAF sono 52, dei quali 31 sono rimasti uccisi in seguito ad attentati o conflitti armati. Nel vertice NATO di Lisbona del 19 e 20 novembre 2010 si è deciso il ritiro delle truppe entro il 2014, quando le forze afghane avranno verosimilmente assunto il totale controllo della sicurezza sul territorio. Abbiamo ricordato i 52 caduti e fra l'altro alle loro storie, alle loro morti, ma forse anzi alle loro vite. Tu Gian hai dedicato un libro, Afghanistan sull'andata, e la scheda terminava con ragionevolmente le forze afghane acquisiranno, garantiranno il controllo del territorio. Quanto è ragionevole questa ipotesi secondo te, Gian? Sì, ho notato anch'io questa aggiunta. Beh, quel ragionevole è diciamo un'ottimistica illusione dal mio punto di vista ormai, perché purtroppo le intenzioni erano buone, le intenzioni erano quelle di creare un esercito, di creare delle forze di sicurezza, addestrarle, metterle in grado di sostituire le forze della NATO e metterle in grado di garantire la sicurezza nelle zone in cui si ritiravano le forze della NATO. Il problema è che da quel che si vede i tempi sono stretti, i tempi sono insufficienti a garantire la formazione di quell'esercito. Tra 2 anni l'esercito tecnicamente sarà stato formato, ma non sarà amalgamato. Sarà un esercito che continua ad avere al suo interno tutte le divisioni che sono il grande male afghano. Un esercito che sarà fatto in parte da ex mujahideen che combattevano 30 anni fa contro i sovietici, in parte da quegli stessi soldati che combattevano al fianco dei sovietici, in parte da tagiki, in parte da pashtun, in parte da... Ecco, per mettere in grado questo esercito, questa polizia di funzionare ci voleva molto più tempo. Noi abbiamo scelto di fare la guerra con l'orologio al polso. I talebani sono lì e aspettano soltanto che ce ne andiamo. Quando ce ne andremo, torneranno a esercitare il loro potere nelle zone, ma soprattutto l'Afghanistan tornerà a essere immediatamente quello di prima. I Pashtun torneranno ad essere Pashtun perché nelle loro zone vivono le famiglie più direttamente minacciate dai talebani. I tagiki torneranno a difendere il loro territorio nel Tagikistan e soprattutto in molti territori torneranno i vecchi signori della guerra, quelli che 30 anni fa combattevano alla testa dei mujahideen, come già succede. E l'Afghanistan tornerà alla sua forma primigenia, purtroppo. E quelle che stai raccontando sono quelle forze centrifughe, non centripete, mi segnala il mio lapsus un ascoltatore a cui facevo riferimento appunto inizio trasmissione. Noi visitando la base dell'esercito nazionale afghano, il Kandak, il battaglione afghano a fianco alla Tobruk, alla base degli alpini, abbiamo in effetti visto proprio le facce diverse di questo esercito, no? Etnie diverse. Fra l'altro, come dire, un aspetto interessante era vedere il colonnello Saleh, il comandante, con al suo fianco un vecchio acerrimo nemico, perché il maggiore Fasullah era un mujahideen, mentre il colonnello Saleh combatteva dall'altra parte. E lavorare nella Tobruk non è facile, lavorare in una base avanzata non è facile, i pericoli sono tanti. A fine agosto, quella base fu oggetto di un tiro, di un razzo, per fortuna senza troppe conseguenze. Il capitano Gianluca D'Amico comanda la compagnia di stanza nella Tobruk. A lui abbiamo chiesto a che distanza occorre che un nemico si avvicini per lanciare un razzo o posizionare il suo mortaio. Dipende dal tipo di mortaio che utilizza, però le posso assicurare che potrebbe stare a un chilometro, come potrebbe stare a 2, 3, 5 chilometri. Sono distanze che riusciamo a controllare, quindi loro principalmente utilizzano le ore del giorno perché non hanno visione notturna, però non, nulla toglie che tutti i momenti sono buoni per creare una minaccia e colpire ognuno di noi. Gli eserciti occidentali dispongono poi, ovviamente anche l'esercito italiano, di strumenti di sorveglianza adeguati. Non scendiamo per ovvi motivi nel dettaglio. Un elemento che accompagna chi va in missione in quei luoghi è sicuramente la paura. C'è la giusta attenzione verso il pericolo di, della presenza di insorgenza, il pericolo degli ED. Aiuta nell'affrontare realmente le situazioni in fase condotta, la giusta attenzione che poi permette di operare in sicurezza. La paura c'è, ma fa parte della vita di ogni giorno, sia in FOB sia al di fuori della FOB. E il pericolo maggiore, la paura più grande, riguarda gli IED, sono gli ordigni improvvisati, sono di vario tipo, sono di varia potenza. Il Lince, da questo punto di vista, è il mezzo in uso all'esercito in quelle zone, resiste fino a una certa quantità di esplosivo. Vi sono anche dispositivi che disattivano, dentro al Lince disattivano gli ordigni radiocomandati, però ci sono i piatti di pressione, ci sono gli ordigni telecomandati col filo. Insomma, è una partita a scacchi quella che si gioca quotidianamente, ogni notte, tra gli insorti che tentano di piazzare ordigni ovunque, non solo sulla Ring Road, ma anche sulle strade sterrate e le forze dell'ISAF. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. 19.35, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Nessun luogo è lontano, puntata speciale dedicata all'Afghanistan dopo una nostra trasferta di 2 settimane nella base avanzata Tobruk Balabaluk. 3419-238-6666 oppure Facebook Nessun luogo è lontano trattino Radio 24 per le domande e i commenti. Alcuni dicono: per impostare una democrazia ci vogliono 100 anni, anche in Italia dopo 67 anni non sappiamo come votare. Beppe da Guastalla invece su Facebook, un ascoltatore domanda: se le cose, una volta realizzato il ritiro, le cose torneranno a essere quelle di prima, si potrebbe parlare di fallimento della missione internazionale? Gianni Calessin. Ah, io penso di sì. Inevitabilmente la parola da utilizzare sarà questa. Non voglio fare tristi presagi, però i presupposti purtroppo sono questi, e se questo sarà il risultato, fallimento sarà la parola giusta, soprattutto perché sono passati tanti anni dall'inizio della missione ormai. Torniamo dentro la Tobruk, torniamo in questa base avanzata dove l'operatività è H24 ovviamente, soprattutto per la squadra dei mortaisti. L'operatività dei mortaisti è H24, siamo su chiamata direttamente dal nostro comandante di compagnia, in base alle tipologie dell'attacco, che sia in diretto o diretto, veniamo allertati e lì, in base a quello che riceviamo, quello che subiamo, interveniamo. In 1:30 ce la facciamo. Se l'attacco venisse di notte? Di notte varia poco, perché alla fine sei sempre H24, quindi perderai 30 secondi soltanto per abituarti al buio, insomma. Ecco, Gianni Calessina, inizio della trasmissione, raccontava come anche sia difficile lavorare in Afghanistan, nel senso che si lavora dentro i lince, si lavora scortati, si lavora a seguito, almeno in alcune zone, ecco, dell'Afghanistan. Il contatto con le persone è sempre molto difficile, è sempre filtrato. I talebani sono la maggior parte delle volte piuttosto invisibili, fatto salvo poi, insomma, questi attacchi che Un minuto prima è tutto tranquillo e poi improvvisamente si scatena l'inferno. Questo fatto di non vedere il nemico, queste montagne che sono di una bellezza incredibile, no? C'è questo stride molto questa, la drammaticità del luogo con dei paesaggi che sono incredibili. Il mortaista, per sua natura, proprio il nemico non lo vede. No, mai. È rarissimo. Non capita mai perché è un'arma che spara a lunga distanza. Com'è per un soldato non vedere il suo nemico? Orribile. Perché? Perché non sai con chi hai da fare, non sai che cosa realmente vedi e quanti ne sono, come sono. Presupponi, ti fai uno schizzo mentale di come potrebbe essere. Però è orribile perché non riesci a vedere. È come un uomo cieco. E il SAV ne sono i nostri occhi. Cos'è il SAV? Il SAV è l'osservatore del fuoco. È colui che ci dà gli aggiustamenti al tiro. Alle cose. E questo per cercare di tracciare anche quelli che sono, come dire, gli aspetti psicologici imprescindibili in una guerra che è guerriglia, una guerra simmetrica, una guerra strana, difficile, un clima pesante, anche quello meteorologico. Insomma, l'Afghanistan è duro, ci sono queste pietre che ti tagliano gli scarponi, il sole che arroventa, poi la notte questo freddo incredibile. Chi invece si muove con una notevole facilità rispetto agli occidentali sono ovviamente gli afghani. La collaborazione con l'esercito afghano e con la polizia afghana è sempre più stretta, tra in particolare il 9° reggimento alpini, lì la compagnia del capitano D'Amico, diventa virtuosa, diventa fruttuosa quando c'è un serio passaggio di intelligence, ad esempio sul posizionamento di ordigni o sui cosiddetti warning. La collaborazione con l'ANA e l'ANP favorisce anche il passaggio di informazioni, questo molte volte ci crea i presupposti per individuare eventuali ordigni esplosivi che nella zona vengono piazzati. Come lei diceva, il passaggio dei nostri convogli, anche delle singole pattuglie, diventa un momento sensibile, quindi quando alcune volte l'ANP o l'ANA ci fornisce delle informazioni che riguardano proprio il posizionamento di ED, questo va a favorire la nostra sicurezza. È successo anche poco tempo fa che un'informazione che c'era stata fornita dall'ANP ha fatto sì che noi ritrovassimo un ordigno considerevole a pochi chilometri dalla FOB, quindi anche dal compound dell'ANSF. E poi tramite la parte RCC, che sarebbe la parte predisposta alla disposa, quindi alla ricerca e alla bonifica dell'ordigno in questione, ha fatto sì che insomma l'ordigno fosse rimosso e non ha creato problemi né a noi né alle NSF stesse. Jamie Lessin, con la chiusura di Bakwa più a sud, quanto diventa importante la Tobruk a Balabaluk, se diventa più importante? Beh, la base Tobruk diventa una base centrale, una base importantissima perché è l'ultimo e più importante avamposto italiano, anche perché è posizionato a fianco della Ring Road, quindi dell'unica strada che attraversa tutto l'Afghanistan e che collega tutte le principali città, da Kabul a Kandahar, ad Herat fino al nord. E quindi diventa la base da cui si deve vigilare sulla libertà di traffico, libertà di movimento tra est e ovest dell'Afghanistan, quindi diventa importantissima anche perché all'intersezione di quell'asse tra la provincia di Helmand e il resto è il confine iraniano, dove passano tutti i traffici di droghe, i traffici di armi, tutti gli spostamenti di uomini armati che combattono con gli insorti e con i talebani. Ecco, perché poi dobbiamo ricordare che esiste tutta una rete logistica dei talebani, degli insorti in generale, che spesso, come dire, vedono accomunati gli interessi tra, ad esempio, cellule talebane e trafficanti di oppio o appunto trafficanti di armi. Molto spesso gli interessi di queste tre componenti si trovano in comune e quindi la domanda, ripeto, che tutti si fanno è sul futuro, cioè quanto è delicata questa fase di transizione, quanto l'insorgenza poi mostrerà ancora di più i muscoli nel momento in cui le truppe ISAF piano piano si ritireranno. Abbiamo posto questa domanda al capitano Gianluca D'Amico. Io sono molto ottimista, li vedo ogni giorno e ogni giorno mi stupisco di quanti miglioramenti ci sono. Il loro vantaggio è quello di essere afghani, quindi parliamo di persone che qui conoscono il territorio, che hanno la stessa cultura poi dell'insorgenza, del personale civile, e quindi io, quello che io gli ripeto sempre, anche in fase di debriefing o di briefing per le attività che conduciamo, è quello di dire che loro hanno un punto di forza, che è quello di essere afghani. Noi ce la mettiamo tutta, abbiamo anche difficoltà linguistiche, perché in effetti sarebbe impensabile che tutti abbiano queste conoscenze della lingua locale, quindi utilizziamo gli interpreti che traducono costantemente quello che loro dicono e quello che noi diciamo. Però fondamentalmente questo esercito è migliorato. Io non vi nascondo che 2 anni fa ho conosciuto un esercito e adesso ne rivedo un altro che è molto più preparato, quindi la fase di transizione sta avvenendo e sono sicuro che ci saranno delle difficoltà quando probabilmente noi andremo via, ma saranno difficoltà che loro riusciranno sicuramente a colmare, sicuramente. E questo è il ritratto dell'esercito afghano che fa il capitano D'Amico, che lavora a gomito con il colonnello Saleh dell'ANA da 3 mesi a questa parte, e insomma inizia a conoscere anche quelle che sono le dinamiche di lavoro sul campo. Gian Michele Sin, prima del traffico, abbiamo 1 minuto e mezzo circa, l'hai già accennato inizio trasmissione, ma che esercito è quello afghano? È sicuramente multietnico o multiclanico? Quanto preparato è? Quanta motivazione porta sotto quella divisa? Allora, abbiamo detto che è un esercito composito, no? Fatto da molte componenti che risentono del passato, ma guardiamo anche che esercito è dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista umano, che forse questo è il principale problema. La NATO ha voluto costruire, ispirata agli americani, ha voluto costruire un esercito di tipologia occidentale, quindi creano un esercito completamente diverso da quelle che sono le abitudini di guerra e di combattimento degli afghani, che si muovono in piccoli gruppi, molto veloci. Ecco, il rischio è che questo esercito non sopravviva al nostro ritiro, che gli afghani non riescano a garantire la manutenzione dei mezzi, dei sistemi di comunicazione a cui si sono abituati con noi, e che quindi si ritrovino a dover tornare ai vecchi sistemi, alla vecchia guerra che sapevano fare. Ecco, secondo me, dal mio punto di vista, era meglio costruire un esercito a misura per gli afghani, un esercito semplice, un esercito con pochi mezzi, un esercito con armi semplici, ma che loro sapevano usare al meglio, sfruttando quella che era soprattutto la loro grande dote, il coraggio al limite dell'incoscienza. E proprio a fianco alla Tobruk sorge la base del 6° Kandak, il battaglione dell'esercito nazionale afghano, alla cui guida c'è il colonnello Saleh, che lavora sul terreno quotidianamente, lavora ogni notte. Al comandante ho chiesto qual è, dal suo punto di vista, l'atteggiamento della popolazione nei villaggi rispetto agli insorti. Nei villaggi, soprattutto questi piccoli villaggi qui intorno, lontani dalla città, la popolazione è povera e poco istruita. Non hanno la televisione, non leggono, non sanno qual è il governo, non capiscono qual è l'esercito regolare afghano e quali sono le forze straniere. La persona più importante in questi villaggi è il mullah della moschea, e spesso i mullah hanno vissuto e studiato in Pakistan. E dal Pakistan sono stati spediti qui. Il mullah è la persona più ascoltata nei villaggi, parla in maniera istruita, la sua parola è quella più seguita. E già il fatto che siano venuti qui dal Pakistan significa che parlano male del governo afghano. Le persone non hanno altro modo di informarsi, per cui la loro parola è quella vera e fanno quello che dice il mullah. Molti hanno già cambiato il loro modo di pensare per questo motivo. Chi ha più influenza nel villaggio, quindi, cattura l'opinione degli altri. Quelli più spaventati, dunque, aiutano l'insorgenza, perché hanno paura di contrariare il mullah. Sì, perché gli insorti hanno svariate armi dalla loro e possono utilizzare diverse leve. Ascoltate ancora il colonnello Saleh. La cosa più importante per convincere la popolazione del villaggio è puntare sul fatto che il governo afghano sta con le forze straniere, che non vogliono il bene del paese. Gli uomini dell'insurgence si presentano come i più coraggiosi, i più valorosi, che combattono per l'onore dell'Afghanistan contro il potere straniero. Questo per la maggior parte delle volte basta a convincere subito. Poi nelle zone più pericolose, come il Gulistan o Bakwa, ci sono gli esperti nella fabbricazione dell'oppio. E allora si promette alla gente dei villaggi di trovare un lavoro nelle fabbriche di oppio. Oppure capita che gli uomini dell'insurgence, quando vanno a convincere la gente, portano con loro i vecchi esperti di religione con la barba lunga, che sono più autorevoli e più rispettati dai villaggi. Oppure ancora portano con loro cibo, regali, qualcosa per farli contenti. La promessa che fanno per convincerli è la libertà. Dicono che la guerra che fanno è una guerra per liberarli da decenni di guerra. Ovviamente, stando lontani dalla città, chi ha vissuto in questi villaggi ha solo visto pistole e Kalashnikov, prima con i russi e adesso con le forze internazionali contro i Taliban. Di padre in figlio hanno solo visto circolare queste armi per combattere contro il nemico e pensano che sia sempre la stessa guerra. Non hanno idea di come il mondo, le cose siano cambiate né chi sia il nemico. Il governo afghano o la Russia per loro è lo stesso. E infine il capitolo armi, a cui faceva accenno anche Gian Michalessin, inviato di guerra del giornale, nostro ospite questa sera, per tentare di capire meglio qual è la situazione nel distretto di Balabaluk in Afghanistan. Il Kandak del colonnello Saleh avrebbe bisogno di molte, molte armi in più. Mortai. Per adesso il battaglione ha solo 6 mortai del 1981. Ne servirebbero almeno un paio da usare nei checkpoint. Poi servirebbero delle mitragliatrici Browning, che sono le armi più potenti. Poi i Ranger, che sono i mezzi migliori da usare per pattugliare le città. Per muoversi avrebbero bisogno di Hammer o altri mezzi meglio protetti contro i proiettili dall'esterno. Poi di armi contraeree da 23 mm, ma soprattutto mortai. E questa è la situazione del sesto Kandak, che lavora gomito gomito con gli alpini del nono reggimento lì nel distretto di Balabaluk. Gian Michalessin, c'è un capitolo che dobbiamo toccare molto velocemente perché siamo quasi in chiusura, ma è il cosiddetto green on blue, cioè quella minaccia che arriva dall'interno dell'esercito afghano nel momento in cui si infiltrano nemici e poi premono il grilletto contro gli alleati dell'ISAF. Però in questa zona fino adesso sembra che questo fenomeno non attecchisca. Non lo sappiamo, perché sul fenomeno del green and blue purtroppo l'ISAF, la NATO, ha steso una cortina di silenzio che è veramente inquietante negli ultimi tempi, anche perché questo fenomeno era un po' il sintomo, il termometro della fretta con cui si preparava il ritiro. Si è arrivati a un reclutamento ad alta intensità, ad alta velocità, per riuscire a formare quell'esercito necessario a garantire il ritiro, con i numeri sufficienti a garantire il ritiro, e ovviamente i talebani ne hanno approfittato per inserire i loro uomini all'interno delle nuove reclute. E quindi ci siamo ritrovati con un esercito infiltrato. E adesso gli americani, le forze di sicurezza stanno cercando di fare tutto il possibile per snidare quelli che sono gli infiltrati all'interno del nuovo esercito. Ma chiaramente il green and blue, ovvero questo fenomeno dei soldati, delle reclute afghane che sparano sui soldati della NATO che li addestrano o li accompagnano, e si è intensificato moltissimo ed è diventato uno dei rischi più elevati assieme agli ED per le truppe della coalizione. L'ultimo capitolo, Gian, che volevo affrontare con te è ancora il futuro, cioè i vuoti che lascerà inevitabilmente la coalizione internazionale. Dal punto di vista non militare, ma in maniera più ampia, geopolitico, chi andrà a colmare questo grande vuoto afghano? Noi lasciamo un buco incredibile, anche perché abbiamo garantito in alcune zone, nelle zone in cui eravamo, dei livelli di vita molto alti che saranno impossibili da mantenere senza gli aiuti occidentali e senza la presenza delle truppe ISAF, che garantivano ovviamente un flusso di denaro, di soldi e di merci. È ovvio che ci sarà qualcuno pronto a inserirsi, sicuramente il Pakistan, che vede l'Afghanistan non come un suo vicino, ma come una parte del proprio territorio. Ricordiamoci che tutti i territori Pashtun sono considerati dai pakistani come terra loro, perché si congiungono con le tribù Pashtun che vivono nelle Northwest Front Province, nelle province nord-orientali del Pakistan. Sì. E non dimentichiamoci che la Cina è lì vicino. E la Cina, se noi andiamo in qualsiasi bazar afghano oggi, è la principale fornitrice di qualsiasi prodotto che si trova sulle bancherelle e nei negozi afghani. Quindi è chiaro chi saranno e chi prenderà il nostro posto, non sicuramente la civiltà occidentale, ma sicuramente il Pakistan, da sempre tradizionale grande protettore, grande nemico dell'Afghanistan, e dall'altra parte la Cina, il gigante cinese che si prepara a trasformare l'Afghanistan in una nuova miniera di risorse, di materie prime per se stessa e in un grande sbocco per i propri prodotti. Grazie allora Gian Michele Sin per aver scrutato un po' nella sfera di cristallo il futuro dell'Afghanistan, inviato di guerra del giornale, esperto di Afghanistan, buona serata, buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. E allora i titoli di coda, non mi resta che ringraziare Nadia Zammitti che ha scritto con me questa puntata, Pietro Corleoni che le ha dato la musica e il ritmo giusto. Vi ricordo che se volete un altro assaggio della nostra missione afghana c'è un reportage di 10 minuti, è andato in onda quest'oggi, andrà in onda domani in replica alle 8:15 mattino. Ringrazio naturalmente voi gentili ascoltatori per essere rimasti all'ascolto. Vi ricordo che tutto quello che non è andato in onda, compreso anche gallerie fotografiche e magari estratti di video, li troverete sul blog della trasmissione. Andate su radio24.it e sul logo lontano e c'è il mio blog dove trovate contenuti in più. Un grazie infine va lì alla lontana Tobruk, a Fox, e un abbraccio a Katanga e Arsenico fra gli altri, e non mi resta che darvi appuntamento a sabato prossimo ricordandovi che nessun luogo è lontano.